Tra pochissimo una corrispondenza da Milano, rimanete in ascolto. Radio Onda Rossa. Pronto, ci senti? Sì, ci senti. Ok, e siamo in contatto con Milano. Che cosa sta succedendo a Milano? Raccontaci un po'. Allora, siamo appena entrati nella ex scuola di Piazza Sant'Eustorgio. Era una scuola media statale vuota da una decina d'anni. Siamo il collettivo di ZAM con tutti quelli che hanno voluto venire con noi ad occupare questo posto. Abbiamo lanciato un appuntamento pubblico di giorno, ovviamente a viso scoperto. E è un edificio bellissimo, è un po', cade un po' insomma a pezzi, però è un enorme, insomma sono 4 piani con un refettorio, tantissime aule, un giardino meraviglioso. Siamo, per chi non conosce Milano, praticamente in centro, cioè in piena zona ticinese, di fianco alle colonne di San Lorenzo. E avete fatto anche molto in fretta a riprendervi un posto in questa città, sì. Insomma, eh? Sì, l'avevamo detto, Milano è una città piena di spazi vuoti. Avevamo detto che non ci avrebbero sgomberato facilmente e insomma ieri avete visto che un po' di resistenza siamo riusciti a tenerla, e avevamo detto che non saremmo stati tanto senza spazio. In più, siccome il comune in questi giorni ci ha fatto sapere che non poteva fare niente perché la proprietà privata insomma si era espressa per tornare in possesso del proprio posto, abbiamo preso un posto comunale. E quindi a questo punto sarà l'amministrazione che, se decide di sgomberarci, si prende le sue responsabilità. L'abbiamo scritto ieri sullo striscione: da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Per chi riconosce la citazione, eccoci qua, li chiamiamo alle loro responsabilità. E insomma, noi siamo molto contenti che ZAM abbia di nuovo un luogo dove stare, insomma, e quindi speriamo che resistiate a lungo. E quindi insomma, se non hai altro da aggiungere, ti salutiamo. Se ci vuoi dire... Venite a trovarci quando passate a Milano, visto che siamo così in centro, siamo anche facilmente raggiungibili da tutti. Un saluto a tutta Roma. Molto volentieri, grazie mille, ciao ciao. Ciao ciao.